Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Ascolto Radio 24 la mattina e sento Milan, Alino Milan. Ma fa venire l'ulata lì chi chiude sto cazzo di Alino Milan. Brucia Roma, brucia Roma, coli romani. Brucia Roma, brucia Roma, coli cristiani. Voi pensate davvero che il problema dei romani è Verdini e non l'albero che casca sulla Laurentina o i topi morti che ci stanno in giro? Brucia Roma, brucia Roma, col Papa dentro. Io non sono un politico, però Orso non può essere, una faccia così non può essere ladra. No. Ci sono un paio di persone che mi hanno detto che non mi voteranno perché c'è l'orso, ma queste non mi avrebbero votato comunque. Bertolaso è candidato, ma è l'unico candidato che può diventare un sindaco capace di togliere Roma dal degrado. Tutti gli altri candidati in campo di cui si è sentito parlare, al suo cospetto, al suo confronto, fanno ridere. È davvero un fuoriclasse. Roma è sui giornali italiani, domani sui giornali del mondo per i topi. E qua il nome è l'ultimo dei miei problemi. Candidato condiviso, che il primo giorno mi dice che i rom poverini vanno aiutati, il secondo giorno mi dice che votava Rotelli, il terzo giorno mi dice che voterebbe il PD, il quarto giorno mi dice che Andreotti è uno statista, e poi al settimo giorno non è più il mio candidato, evidentemente. Ma mentre solo lui sapeva suonare la cetra, mo noi altri se montanti a sparare. Effettivamente, allora, qual è il problema di Roma? Che Verdini pare voti Giachetti alle primarie, o che ci sono i topi che sanguinano, morti che sanguinano, gli alberi che cadono, le buche che devastano le strade, mafia capitale, corruzione, i pullman che non passano, i treni che non passano perché ci sono gli scioperi, le metropolitane, ma chi lo sa, chi lo sa? Sapete che c'è anche, beh, ragazzi, c'è l'orso. Io veramente Mascia e l'orso, uno Gianfranco Mascia del Popolo Viola, qualche volta l'abbiamo invitato anche noi, quello che faceva tutti i vari girotondi contro Berlusconi, no? Gianfranco Mascia è uno dei candidati. E allora lui si presenta con l'orso, Mascia e l'orso. Vabbè, ma ragazzi, cioè, spettacolare, spettacolare. Senti qua, Giachetti. Circo al Salvaturo, cioè quello con l'orso a chiotto. Ciao. Le primarie, si è sentito un po' poco, adesso lo facciamo risentire. Dice Giachetti, le primarie cosa sono? Un circo, circo allo stato puro, c'è quello con l'orso a chiotto, Mascia e l'orso. Circo al Salvaturo, cioè quello con l'orso a chiotto. Quello con l'orso a chiotto, Vincino, c'è quello con l'orso a chiotto. Ma poi il voto va all'orso o a Mascia? Non ho capito se dovesse uno. Ma pochi sempre questo ne ha presi Mascia. Sì, quello è vero. Ma a chi vanno? Credo, li dividono? Li dividono i voti, lui e l'orso? Vanno all'orso? Non lo so, guarda, no, a quest'ora di mattina tu mi poni dei problemi di quelli là della matematica quantistica, sì, praticamente. Sì. Effettivamente ti ho posto un problema grave. Effettivamente. Senti, guarda qua, il Messaggero, pagina 16, capitale invasa dai topi, pascolano tra i rifiuti. I topi che pascolano, titolo a caratteri cubitali, i topi che pascolano. Ma non ci sono sotto casa tua? Hai mai visto delle greggi di topo? Sì, ci sono sotto casa mia, esattamente. topi antichi proprio, gli antichi romani, ma cose anche grandi, non piccole, sì. Topi umani. Ma difatti io spero con la statua Andreotti di spaventarli. Non è è vero, metti il busto di marmo di Andreotti bella in vista, lo spaventa topi, lo spaventa topi. Là, difatti, non è, è sempre stato lo spaventa topi. Lo spaventa topi. Va bene, come avete capito, sono le 6:34 minuti, è venerdì, questa è l'unica buona notizia del venerdì, e sono le, c'è Lorenzo Nespoli in redazione, Peter Bescapè in regia, c'è Vincino e c'è il grande Chicco Testa. Buongiorno Chicco, come va? Ciao, buongiorno, bene, siamo in finale insieme allora. Siamo in finale insieme, Milan-Juventus il 21 maggio a Roma, finale di Coppa Italia. Sai che forse... Vieni, andiamo insieme. Ma sai che volentieri, porto anche mio figlio Mattia di 7 anni, gli ho già promesso. Andiamo a procurare qualche biglietto. No, vabbè, non lo dicevo per questo, Chicco. Vedo di portarlo. Ho un unico timore, Chicco, ho veramente un unico timore di portare mio figlio, che ripeto ha 7 anni, a quell'età sai sono un po' come delle bandieruole, cambiano, vedere un trionfo della Juve e mi entra milanista e mi esce. Questo sarebbe un obiettivo per me fondamentale, riuscire a convincere tuo figlio di abbandonare la religione del padre e sceglierne uno un po' più sicura, diciamo. Temo sì, che si converta nel giro di 90 o 120 minuti, ho un unico questo timore, però gli dirò che Roma è bella, guarda, c'è il Colosseo, c'hanno i topi, guarda, i topini, cose così. Vabbè, che dobbiamo fare? La sigla della Champions League, sì, magari. Allora, dai, apriamo il Parlamento, qui in realtà c'è da parlare di altre cose. Vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Allora, poi parliamo di cose anche più serie, perché qua andiamo in guerra e manco ce lo dicono. Però chiudiamola qui la questione di Roma. Intanto, Chicco, chi vince le primarie? Del centro-sinistra, sono domenica, Giachetti. Tra Orsi e Orsacchiotti, onestamente il PD un paio di candidati decenti ce li ha, che sono Giachetti e Moralsulta. Sì, sì. Sembrano i pronostici, sembra prevalere Giachetti, però non te lo so dire. Ma tu vai a votare? Io non sono cittadino romano, quindi abito a Roma, ma abito qualche giorno alla settimana a Roma, ma... Non voto, è un bel casino. Centrodestra invece allo sfascio. Assolutamente. C'è questa candidata 5 Stelle che si presenta benino, diciamo piacevole, però l'ho sentito un paio di volte, cittadini, trasparenza, quindi qualcuno vorrebbe sapere cosa vuol fare per i trasporti, per i rifiuti, per le buche, eccetera. Guarda, lo scopriremo, tra l'altro possiamo dirlo, lunedì sarà i nostri microfoni, lunedì sarà nostra ospite alle 8:40, Virginia Raggi, quindi... E quindi lo scopriremo che cosa ha in mente per... Stamattina ho scritto un pezzettino per l'Unità in cui dico, per favore, smettetela di dire che questa ragazza ha lavorato 10 anni fa, 12 anni fa... Ma questa è una minchiata. ...allo studio Previti, perché questo fa parte di quei ventilatori che spargono cattivi odori. Diciamo, però insomma, Vincino, ti piace questa cosa? Ha lavorato per Previti. È uno studio serio. No, ma certo. Uno studio dove, come dire, i candidati li selezionano bene, non è che assolutamente. Ha fatto il militare a Cuneo. Come dire. Comunque, così. Io sono per Giachetti. Giachetti. Ripetiamo, è cittadino più onesto dentro il raccordo anulare che ci sia in tutta Roma. Questo l'avevi detto. Ma tu sei per Giachetti perché è un ex radicale, di la verità. È solo questo il motivo. Ma non è solo questo, è un radicale, diciamo. È un radicale. Si è fatto conoscere Roma, ha lavorato già al comune di Roma tantissimo. Rutelli, insomma, era lui la vera forza della giunta Rutelli. Giachetti. Giacche, ecco Giacche, qua. Poi tecno, un presidente, un vicepresidente della Camera di quelli va che a Di Maio gli fa un culo, come dire, molto più bravo di Di Maio. Ecco. Non... Giacchetti, vabbè, hai scelto, hai scelto. Giacchetti è il tuo candidato. Sì, io avrei scelto Giacchetti. Già due voti, peccato che Vincino non vota, che sta a Mondello. Tu non voti. Ma non è vero, sto a Roma, qua, preciso, assolutamente. E vai a votare? Vai a votare? Assolutamente sì. Vai a votare, ho un voto per Giacchetti, dai, possiamo... Possiamo già segnarla, e mezzo voto per l'orso. Dai, vota anche l'orso. No, votalo, votalo l'orso. Del popolo viola, lasciamo stare. Ma lascia perdere, ma non importa chi sia. Cosa, guarda, uno. Il popolo viola, vabbè. Assolutamente no. Va bene, allora, no, mentre noi ridiamo di questo, scherziamo su topi o non topi, ragazzi, ma qui si va in guerra, o siamo già in guerra? Cioè, hanno ucciso due italiani, poveracci, in Libia, questa è la notizia, ce ne sono altri due che sono rapiti da un bel po' di tempo. Ma intanto, Chicco Testa, ricordiamo, noi in Libia abbiamo anche grandi interessi economici, lo sappiamo bene, lo sai bene anche tu, l'ENI, eccetera. Certo. Ma ci conviene buttarci qui? Ci sono tantissime imprese italiane, piccole, no? Medie, anche operatori economici, insomma, che non sono mai andati via o comunque sono tornati. Ma ci conviene buttarci in questa avventura? Non è che ci conviene, a un certo punto ci sono anche degli obblighi, dei doveri, delle cose che occorre fare, lì si massacrano, qualcuno bisognerà che ci metta le mani in maniera decente, non lo so, le operazioni di, come si dice, keep pacing, magari c'hanno un po' di ipocrisia nel nome, abbastanza, cioè andiamo in guerra. Però bisogna passare dal voto del Parlamento, non so, per esempio Vincino, tu che tutti i giorni sei in Parlamento, se ne parla in Parlamento, si discute. Non sono titolo di parere, comunque no, assolutamente no, credo di no, non lo so, credo di no. E credo anche che, come dire, dovrebbero andare in guerra quelli che hanno gli eserciti seri apposta, bravi per fare la guerra, mica noi, invece. Non lo so, penso più agli inglesi, ai francesi, agli americani. Ma se quelli ci hanno mandato avanti noi, ai russi, no, ma se quelli hanno mandato avanti noi, gli americani, capito, andate avanti. Non lo so, cioè, mi sembra. Ci vorrebbe una buona discussione, ma dove? In Parlamento? Non c'è più il Parlamento, dai. È vero che ce l'hai già detto l'altra volta, Renzi l'ha abolito il Parlamento. Non è che mette il voto di fiducia e via, si va in guerra, tutti in guerra. Senti. Poi al primo morto, tac, si ritorna, non è che... Ecco là. Sentite Salvini. Se Salvini dice che Renzi c'ha. Questo passa al commento, Chicco. Dobbiamo fare Salvini su Renzi e la Libia. Questo è un governo, soprattutto Renzi ha le mani sporche di sangue, tanto in Libia quanto in Italia. Sull'immigrazione è complice del terrorismo internazionale. Non è vittima, ma è complice. E mani sporche di sangue, Chicco Testa. E se vuoi che sono un imbecille, basta, finito il discorso, ecco, no? Ecco, punto. Cioè, Salvini ha un problema politico enorme, no? Perché dice queste cose, no? Poi si trova a Milano con un candidato che io conosco, che è una persona per bene, Parisi. Che c'entra con la Lega come io c'entro con i marziani. È un uomo che ha lavorato con De Michelis, con De Mita, è stato a Palazzo Chigi per molti anni, è stato il direttore di Confindustria, cioè un esponente di quelli che ci tenerebbe i poteri forti, i poteri oscuri, no? Ma non può fare altro, perché lui non ha candidati da proporre, non ha a Roma ha detto di sì a Bertolaso, no? Poi adesso no, però non c'è nulla da proporre, capisci? Quindi c'è una distanza talmente enorme tra il linguaggio roboante che usa e poi quello che effettivamente riesce a fare, e allora cerca di recuperare sul piano verbale dicendo queste cose senza senso. Per esempio, sentitene qui un'altra, senti Salvini su Mattarella, il capo dello Stato che è andato a un convegno sui migranti. E ripeto, leggevo l'ultima agenzia su Mattarella, io poi mi incazzo come un bufalo che è in visita a questa Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti. Che cazzo ci va a fare il presidente Mattarella, con tutto il rispetto per la sua agenda? Ecco, con tutto il rispetto, Vincino, che cazzo ci va a fare Mattarella? Come dire... Che devo dire? No, non lo so, di qualcosa. Non lo so, no, ma me l'ha già, parlato Chicco Testa, Chicco, su Salvini, dai, non è che non, poi quello che Salvini a Roma l'ha sempre odiata, a Roma l'ha trovato in tutti i modi, non è viene la litterizia quando viene a Roma, no, e che deve fare? Vuole imporre cambiate a Roma Salvini? Ah, stia buono, no, poi c'è. Ma come stia buono? Dai, come dire, ma se dicono che è l'unico anti-Renzi a destra, adesso stia ma l'unico dei che? Cioè, Renzi contro Salvini se lo mangia 20 volte a colazione ogni mattina col bignè, con i cornetti, dai. 20 volte. Non è un candidato assolutamente. Vabbè, il giudizio è chiaro. Allora, via WhatsApp al 349-238-6666 arrivano i vostri commenti, senti qui. Alino, chiedi a Chicco Testa se per caso il programma del PD lo chiediamo all'Orso di Mascia. Milan, per Roma non ci vuole un sindaco, ci vuole il pifferaio magico. Questa roba di Roma ingovernabile, guarda Chicco, c'è abbastanza. Roma ingovernabile, tra topi, gli alberi che cadono sono morte due persone, ma io dico, ma... In questo momento noi che viviamo a Roma diciamo siamo molto invidiosi di voi che vivete a Milano. Ah, vabbè, ma no. Va detto, perché c'è stato un momento in cui sembrava che Roma potesse stare in questa competizione. No? Oggi per vari fattori che è difficile anche analizzare, invece sta in questa situazione. Poi naturalmente c'è l'esagerazione delle notizie. È chiaro che quando tu entri in un flusso negativo di informazione, no? Sì. Qualsiasi cosa esaspera questa negatività, diciamo così. Sì, no? Certo, si vede solo lo schifo, insomma. Si vede solo lo schifo, eccetera, eccetera. E qui bisogna rimettersi a lavorare seriamente, con gente capace, con una buona squadra di amministratori. Ce lo dice Vincino, una cosa bella di Roma, bellissima, che nessuno al mondo mai avrà, dai, anche in questo momento di topi... E alberi che cadono, Vincino. Stai balbettando. La luce di Roma, la luce. C'era una luce pazzesca di mattina, stupenda. Che bello. Colosseo fuori con una luce proprio da. Che poi è una cosa strana, è una luce che si vedono nei film degli anni 40-50 a colori, bello. Che non si vedono nei film più di ora, perché, come dire, non lo so, forse la pellicola aveva una capacità di cogliere la luce molto superiore a quella che è la digitale. Cioè solo a Roma al mattino c'è la luce dei film anni 40, quando le pellicole... C'è il Colosseo, assolutamente. La luce e il Colosseo, dai. Beh, sono due ottimi motivi. Dobbiamo andare alle informazioni sul traffico. Anche il Tevere. Vedi che a scoprirle poi le cose vengono fuori, una dopo l'altra. Dai, un attimo il traffico. E ora Milan, ma non saffogo, Milan, ma mi spieghi, ma che minchia ha fatto sto Renzi? Ha preso la crema brûlée con Hollande, ha preso... il tè con la Merkel, ma che ha fatto? Ma poi il canone Rai, ma che se lo ficchi dove sa lui il canone Rai? Alessandro Milan, una voce libera e competente, solo del calcio non capisce niente. Se le banche stanno in difficoltà, lo Stato le aiuta. Se io non pago la settima rata del mutuo, la banca si riprende la mia casa. Un italiano su quattro fa uso di stupefacenti. Sì, siamo tutti stupefatti. Siamo stupefatti delle cazzate che ci raccontano tutti i giorni i nostri politici. Oh Milan, e sono fiorentino. Ho sentito stamane che dici leggi Topolino con la tua figliola, tu figlioli. Ma te, appena vanno a letto tu figlioli, vai subito a vedere le vecchie edizioni di Colpo Grosso. Sei un gran maialone! Ciao! Eccolo qua il mio amico il fiorentino, finalmente re di vivo. Allora qui devo chiedere com'è una cosa. Che fai con colpo grosso? Scusa. No, dice il fiorentino che vado, metto a letto i bambini e poi vado a vedere le cose da sporcaccione così. Vabbè, ma non è la verità perché lo dice il nostro ascoltatore. Allora c'è uno che avete sentito, ha detto sul canone Rai non è molto contento. Qui abbiamo Chicco Testa che insomma presidente Assoelettrica, giusto? È sì. Giusta la carica, ecco, sì, ancora per qualche mese, sì. Giusto per pagare il canone, ti hanno messo esatto. Negli ultimi mesi ti hanno messo questa roba papapam. Esatto. il tuo amico Renzi, eh? Amico, intanto ti ha messo questa roba che ti fa infuriare, e fa infuriare tutti i gestori, eh? È un po' così. Sì, no, vabbè, è chiaro che per noi rappresenta una rogna, insomma, noi vendiamo elettricità, non vendiamo il canone TV, no? La bolletta viene usata così, un po' come un canguro che si porta presso nel marsupio una voce che non gli è propria. Ma è illegale, guarda che ci sono, noi abbiamo invitato con Oscar Giannino, il professor Antonini, gente costituzionalisti che dicono faremo delle battaglie perché è incostituzionale questo di metterla. No, ma secondo me la battaglia che loro vogliono fare non riguarda tanto il fatto che si paga attraverso la bolletta, ma quanto proprio sulla natura del canone, cioè c'è una domanda, dice va bene. Il canone aveva un senso quando c'era solo la televisione pubblica, sì. No? E oggi abbiamo canali di ogni tipo e genere, da Netflix a Sky e i vari canali digitali, eccetera, eccetera. Ha ancora senso che sì. La televisione pubblica sia finanziata attraverso una tassa? Diciamo, questa è la domanda, no? Ma almeno è tutto a posto, cioè nel senso per i gestori, o è un gran, o sarà un gran casino a luglio nella bolletta? No, non sarà un gran casino. Adesso io 15 giorni fa mi sono un po' lamentato perché eravamo un po' in ritardo, adesso le cose si stanno definendo, no, non sarà un gran casino. Si paga, io si credo paga. Che buona parte delle proteste derivino da un fatto che fino ad oggi c'era un 30% di italiani che diciamo così, sono i furbi e il canone non lo pagavano. Sì, sì. No. Per quelli che lo pagavano non cambierà poco, quasi nulla, sì. Pagheranno una decina di euro in meno quest'anno e una ventina l'anno prossimo in meno, quindi per chi lo pagava già è una buona notizia, per chi non lo pagava niente. E qui no, e non ho mai capito Vincino in quale categoria a scriverlo, perché l'attacco di tosse di prima mattina, sono quelle cose, quelle cose tu cavatela sempre così come i politici, non so se ne occupa mia moglie di queste cose a casa. Il politico in genere risponde così alla domanda sul canone, sono cose di cui si occupa mia moglie a casa, dovrei chiedere. È insopportabile dai, il canone, dai, diciamola, veramente, è insopportabile tutta la RAI, è insopportabile il Renzi che aveva promesso che l'avrebbe levato la RAI dalle grinfie dei partiti, dei cose, se l'ha acchiappata tutta da solo lui. Com'è dai, che hai detto l'altra volta dei 10.000 di Saxa Rubra, giusto per... No, ma sono anche di più, non so, 15.000 mangiapane a che ci sono là per fare una cosa che fanno in mille, giusto in per renderceli tutti amici, tutti ma colleghi, capito, tutti colleghi. Ma dai, c'è cioè un carrozzone assurdo, inutile, totalmente. Ma non è. Eccolo. Ma no, ma è così, guarda. No, io poi gli voglio bene, ma non è che gli vuoi bene, sì, ma già fare tradimento. Ho capito, ma come voglio bene a tutti gli statali di vario genere e di vario tipo, dai. Cioè, poi soprattutto che anche Barba Blu delle sue mogli. Esatto. Privatizzata, dai, stop, una sola cosa, Chicco, no. Bisogna privatizzare. È uno dei miei punti di stesso correnzi, mille volte ho detto, scritto, l'ho detto anche personalmente, vendila questa benedetta RAI. Ma siccome... E lui? Non ci sente molto, non ci sente. Ha fame, acchiappa tutti i posti che può acchiappare, questo è il punto. Eccolo là. Però su una cosa saremo d'accordo tutti: il 22 dicembre, segnatevi in agenda un appuntamento fondamentale. Ancora ieri, 22 dicembre, sì, Vincino, senti qui, Renzi l'ha ribadito: 22 dicembre, poco prima di Natale. Sentilo qua, 22 dicembre, Renzi. La Salerno-Reggio Calabria, mi ridono tutti dietro quando dico che finiremo la Salerno-Reggio Calabria. e io le dico che il 10 marzo sarò in Calabria per andare a verificare l'ultimo spezzone, l'ultimo diaframma si romperà nell'ultima galleria, e poi il 22 dicembre l'inaugurazione. Eccolo lì, Vincino, non prendere impegni, non prendere impegni. Ai ai ai. No, no, perché avevi da fare per il 21 dicembre, no? Tra l'altro Renzi ha aggiunto e il ponte sullo stretto prima o poi si farà, no. Ma io sono favorevole al ponte, guarda, sì, assolutamente. Perché così vai a Bondello in macchina. No, ci vado in treno diretto da Roma. Bello. A Palermo, in treno veloce in 4 ore, insomma, tre ore e mezza, via. Vabbè, dai, chiudiamo come abbiamo iniziato. Ci sono le primarie del centro-sinistra, almeno tra Pedica, il generale Domenico Rossi, Mora Sutte e Giachetti, sono questi che sentirete cantare. Chi canta meglio a Radio Rock? Senti qui. Certe notti sei sveglio. Chi è questo? O non sarai sveglio. Pedica. Mai. Mamma mia. Ci vediamo. Pedica bocciato. Urca, ragazzi. Pace come un rock che ti morde col suo swing. Il generale Domenico Rossi che ti fulmina sul ring. Una carriera militare di uno shock. No, una carriera militare distrutta. Mora sud. Perché me sento un friccicone il cuore. Vabbè, dai. Che ce frega, Giachetti. Ma che ce importa se lo starvino ci ha messo acqua. Diventa indeciso. Ah, no, questa è Mora sud ancora. Mora sud. Che allora c'era l'orso che ha cantato prima. Mascia. L'ultimo in Giachetti arriva adesso. Che ponemo un coro è meglio il vino. Basta, mi sono perso chi sono, non voto più. Vabbè, chi vince quindi in base? Il generale è distrutto. Non lo so. È un disastro. Lo scopriremo domenica. Il voto di Giachetti che aveva dato Vincino è stato già ritirato, quindi si parte con tutti a zero. Vi devo salutare, Chicco Testa e Vincino Chicco. Ci vediamo il 21 maggio, finale Coppa Italia, sicuramente. Ciao. L'Europa al bivio Greco con Radio 24 nel cuore della crisi. Dal 7 al 12 marzo, Radio 24 vi accompagna in un viaggio nel paese che più di tutti racconta la profonda crisi dell'Europa contemporanea. Immigrazione e scontro con Bruxelles, crisi economica e occupazionale, crisi di identità di un paese che si riflette sull'intero continente. Da Idomeni, dove migliaia di migranti premono alle porte della fortezza Europa, fino ad Atene, dove il governo cerca i mezzi per sostenere un'economia in ginocchio. Radio 24, con i suoi inviati, i suoi conduttori e gli esperti in studio, percorre le strade della Grecia per cercare di comprendere il cammino dell'Europa. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. È venerdì, amici, alle 7:19 minuti in punto, il giorno in cui si conclude la 148esima settimana decisiva di questa legislatura per l'abolizione delle province. Dai. Allora, siamo qui, parleremo anche più avanti, oltre che nella lettura dei giornali, quello che sta succedendo in Libia. Sicuramente lo faremo con l'inviato del Corriere della Sera Lorenzo Cremonesi, con il generale Vincenzo Camporini. Insomma, andiamo in guerra o ci siamo già dentro all'insaputa un po' del Parlamento, comunque con un dibattito pubblico che non è così diffuso su quello che sta succedendo. Lo scopriremo. Intanto andiamo a approfondire tutto dai giornali. Venerdì 4 marzo, venerdì per l'appunto, il Sole 24 Ore apre sugli appalti, codice leggero da 660 a 217 articoli, questo è il titolo della prima pagina, con il primo sia la riforma che riguarda soprattutto il settore dell'edilizia, ma non solo.